This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Impossibile tenere le teste ferme, ma soprattutto non fare i corretti. Buonasera a tutti, Radio Città del Capo, This Is Not an Exit. Buonasera, dottor Corrias e dottor Scarpa. Buonasera qua con lei, me. Buonasera, dottor Babek. Allora, siamo qui pronti per una nuova avventura. Adesso ce ne andiamo a fare un po' di punk, ce lo ascoltiamo come si deve e parliamo di punk oggi, mi sembra di capire. Ma sì, dai, da st'estate che non parliamo di non mettiamo del punk melodico, puntatone sui Rancid con la quale abbiamo concluso degnamente l'annata 2014-2015. E beh, insomma, i contraltare del Rancid erano questi che erano i NoFX. Beh sì, sicuramente NoFX in giro dal 1983, però insomma il grande successo, poi possiamo dirlo, lo ottengono nella metà degli anni 90, quando il revival del punk melodico ha quel successo clamoroso. E una volta esplosa la bolla speculativa del grunge, eccoci a gonfiare quella del punk. Il corporate punk, perché comunque ormai Nirvana erano belli e morti, insomma c'era qualcosa da tirar fuori per il mainstream e tirano fuori appunto il punk melodico. Però c'è da dire che loro, coerenti, non hanno mai firmato per una major, no, FX, e quantomeno non facevano passare i loro video su MTV, quindi un grande merito. Vero, molto coerente, questo è poco ma sicuro. Poi ovviamente da parte loro c'è anche il discorso prettamente musicale, che non era poi soltanto punk. Erano molto presi dal mischiare, fare un crossoverizzare vari generi, anche perché effettivamente erano tutto tranne punk a livello musicale. Cioè qui parliamo di persone che sapevano suonare. Beh sì, mischiavano un po' come i Renzi dalla fine, ska, reggae e quant'altro. Ecco, era un punk melodico mischiato con generi anche caraibici. Give all your money away. Why? Why? Ragazzi come noi, i NoFX della serie, le dicevano chiare, tonde, con tanta ironia e grazie forse anche a questo ebbero un enorme successo. Magari erano snobbati da gente come me, per esempio, che li considerava troppo rozzi, semplici, sembravano degli idioti, c'è poco da fare, ma in realtà erano dei furbissimi idioti, degli intelligenti idioti che, una volta ho capito che rabbia, furia, frustrazione, classici temi di hardcore, che anche loro comunque, soprattutto in questi primi lavori, esprimevano, erano piuttosto consapevoli, delle, almeno a livello esistenziale, di quello che gli girava intorno. Ricordiamo, sono di Berkeley, California. Quindi i temi erano quelli classici dell'hardcore, tutto americano e californiano in primis. Poi però, insomma, i tempi stavano cambiando molto velocemente, la direzione della società aveva preso una piega che probabilmente, anche senza leggersi un trattato di filosofia, era intuibile da chi avesse un po' di cervello e magari calcando scene musicali era anche più facile per certi versi. Ebbene, loro te lo raccontavano chiaro e tondo, sparandotelo in faccia, con parole semplici, quando riuscivi a capirle, perché erano sparate alla velocità massima. We'll be right back. Ed eccoci qua, siamo ancora da vivo sugli studi, negli studi di Radio Città del Capo, e quindi, visto che siamo dal vivo, vi ricordo il nostro numero di cellulare, se volete mandarci gli sms via WhatsApp, via Telegram, come vi pare. 348-76-49-289, 348-76-49-289, ok? Quindi parliamo un po' del cantante. Alla fine Fat Mike, al secolo Mike Burkett, è uno che nel giro punk da tempo immemore, dai primi anni 80. Pensate che nell'84, in viaggio a Firenze con suo padre, volle conoscere la scena punk hardcore di Firenze, la Granducato di Toscana, famosa per aver dato in Italia a un grosso seguito di punk. Il Granducato punk. Granducato punk, sì. C'era poi la scena di Pordenone, quelle erano le scene, no? All'epoca, proprio i primi che facevano punk in Italia. E lui, insomma, ragazzino, volle andare a conoscere la scena, andò a suonare, a vedersi un concerto dei Putrid Fever, gruppo fiorentino, appunto, e, se non sbaglio, fiorentino, Nicola, sì, correggimi, sì, se sì. Sbaglio. Insomma, è uno che già dall'84, da ragazzino, girava il mondo per conoscere le scene punk, quindi comunque non parliamo di un... di un nulla facente, era uno che davvero col punk poi ci ha campato. Punk come stile di vita, fin dagli inizi. I'm drink and drive, you might spill your drink before you get behind. Now we'll just stop and think. 39% of apps, tits are caused by pixelated. The other 65% are not alcohol related. What does this tell us of drunk drivers? They seem to have a better record than the sober team. I'm not so worried about how many I kill. I'm much more concerned with how much beer I spill. Beh, ci siamo lasciati raccontando del giovane Fat Mike in giro per l'Italia, ma mi sa col paparino a seguito. Invece poi con NoFX contribuì al successo mondiale, l'abbiamo detto, corporate del punk, che è una cosa antinomica, cioè c'è poco da fare. Il punk nasce per essere autoprodotto, autogestito. Loro sono sempre stati sulla loro etichetta, addirittura dopo anni e anni con Epitaph. Fat Mike appunto fondò un'etichetta, la Fat Records, e vabbè, a quel punto si autoproducevano per davvero, ma contribuirono a sparpagliare il verbo hardcore melodico in giro per il mondo, suonando tra i primi, a seguito di Bad Religion ovviamente e tanti altri, ma della nuova generazione di ventenni in Australia, Giappone, Italia, in Europa venivano spessissimo. Anche in Sud America poi hanno avuto anche dei problemi, perché insomma loro provocavano un po' di risse, arrivavano un po' al ticci ai concerti, e qualche volta magari ci scappava anche morto, come è successo una volta con il tour manager, se non sbaglio, comunque uno vicino al gruppo, che in un paese del Sud America fu praticamente fatto fuori. Quindi comunque non bisogna scherzare in certi posti, no. Può essere buono e tranquillo, però è meglio non disturbare certi loschi personaggi. Stare sereni è doveroso e salutare, però questo mi fa sorridere, perché se non sbaglio i primi periodi NoFX loro erano molto vicini al filone straight edge, no Rosario? Sì, sicuramente anche avevano fatto anche un pezzo dei Minor Threat, quindi comunque straight edge appunto, erano vicini, però sì, cambiarono poi sicuramente atteggiamento e insomma un po' di alcol, molto più punk forse, sì, comunque un po' di alcol, non lo so poi gli altri usi e consumi che hanno fatto, però sicuramente in molti video si vedono loro che la birra se la fanno insomma sul palco. Sì, no, ma è interessante comunque anche sottolineare il fatto che il discorso che dicevi prima legato all'autoproduzione, al volersi comunque non uscire da certe idee che poi alla fine penso siano stati così tra i perni principali con cui poi sono cresciuti sti ragazzi, legati poi alla fine al vivere punk, quindi non fermarsi solo al discorso prettamente musicale, ma anche diventa una questione di attitudine, ecco. Questa è basilare, lo dimostrano, e dimostrando, come poi hanno fatto anche moltissimi altri prima di loro, che non c'è per forza bisogno di un manager o di una grossa etichetta dietro per poter, tra virgolette, sfondare, bensì ci si può far conoscere con i mezzi propri, avendo il controllo totale di tutto quello che si fa. E loro in NoFX penso che siano una delle dimostrazioni viventi di ciò che è stato il punk e è ancora oggi. My feet.

Ed eccoci ancora qua, raccontavamo di questi baldi giovani apparentemente idioti, lo ribadiamo, con humor neanche tanto malcelato. Man mano che passavano gli anni i testi diventavano sempre più sarcastici e prendevano per i fondelli più o meno tutto, da se stessi ubriaconi inneggiando a non bere quando si guida, a un pezzo celeberrimo che si chiama Drug Free America, che fu addirittura, secondo me, a Giuliano Ferrara piacciono i NoFX. A un certo punto su Il Foglio uscì, quando 5-6 anni fa si cominciò a parlare di liberalizzare la droga in California, uscì un articolo sul Foglio dove si citavano in apertura questo brano Drug Free America dei NoFX. Poi non so cosa ci abbia capito, perché non è che loro parlassero di liberalizzazione vera e propria, loro parlavano e auspicavano droga gratis per tutti negli Stati Uniti. Cioè, se la liberizzi bene, quindi la distribuisci ovunque. Gratis, for free. Poi comunque un altro, insomma, bersaglio del bon fight era sicuramente George Bush. Ma come mai? Padre. Strano. Anzi, il figlio. Loro non erano così politicamente schierati, fino a un certo punto, poi è arrivato pure il figlio. E beh, allora a quel punto è scattata l'associazione Rock Against Bush, che praticamente aveva fatto appunto Fight Mike, l'aveva organizzata e, per sensibilizzare probabilmente i ragazzi su temi politici, e fece addirittura due compilation con tutti i gruppi che erano contro W. Bush. button. A kid just having fun and sold his body for depression. One ball and all but one impression when it's 10-on-1. You don't care what you're doing, you know it's sure fun. If it happened to your mother, would you laugh so hard? What well, was someone's son or brother that you kicked so hard? Siamo ancora in diretta, sempre sui 94.7 o 96.25, siete su Radio Città del Capo. Ricordiamo, siamo in diretta, mettiamo tre brani alla volta, o quattro, perché durano veramente poco, come tradizione punk impone. Beh, sicuramente i pezzi davvero durano poco, però volevo un attimo parlare dei lavori, insomma, alla fine, quelli noi primi, perché poi il successo l'hanno avuto appunto nel 94 con Pabbi Ndrablik, inutile. Sì, insomma, noi stiamo trasmettendo le primissime cose. Le primissime cose, insomma, diciamo che Liberal Animation dell'88, poi SM Airlines dell'89, Ribbed del 91 e poi White Trash, Two Ibs and Hebin del 92. Che praticamente loro si parlano di, no, delle loro origini, perché due ebrei, un messicano e un proletario bianco. Dei folli. Cioè, fa molto strano, perché comunque, cioè, loro ai tempi si definivano così in slang praticamente la comunità povera bianca negli USA. Quindi sta cosa poi alla fine gli è stata etichettata e se la sono portati dietro per parecchio tempo, anche se poi di povero e di piccola comunità rimase ed è rimasto veramente ben poco, nonostante poi alla fine... nonostante vari cambiamenti anche a livello sia musicale ma anche di attitudine, hanno, come dire, inasprito anche un discorso tra virgolette politico, comunque sempre impermeato da un certo alone di sarcasmo e di ironia, dove praticamente dicevano una cosa e poi negavano l'evidenza così successivamente. E giusto per stare a tema, ce ne andiamo ad ascoltare un altro pezzo, che è Straight Edge dei Minor Threat. Ora, tutto erano tranne che Straight Edge, questo è poco ma sicuro. Nose. get all the show. I've got straight in. Yeah. E stiamo ascoltando i proletari bianchi d'America, come i NoFX, vabbè, ma con un sacco di ironia, si definivano, non troppo, perché poi Fat Mike, per esempio, si laureò in questi anni, nel 92, e le tasse universitarie, che ora sono molto alte negli Stati Uniti, erano ancora ad un livello accettabile, ma effettivamente anche nella ricca California non bastava più essere un bianco di origine ebrea come Fat Mike, ma magari di buona famiglia, perché le tasse universitarie da lì a poco stavano già aumentando, il welfare state stava crollando già dai tempi di Reagan, ovviamente, e ormai la direzione era quella. Da lì poi tutti i costi di vita schizzarono alle stelle, ma soprattutto per un ragazzo, ripetiamo, è famoso, ormai se ne parla abbondantemente, le tasse universitarie, e loro venivano da Berkeley. Beh, le tasse universitarie sicuramente sono molto alte, però comunque col successo musicale potevano comunque pagarsi gli studi. Il successo comunque arriva un po' tardi per loro, perché ricordiamo, prima del 94 soldi ne hanno davvero visti pochi. Sì, vendevano poche migliaia di copie. Poi accanirsi, insomma, seguire quella filosofia che i loro video non dovevano andare su MTV era anche un ingresso che mancava. Forse l'unico ingresso che ci avevano extra dischi era quello delle magliette e dei tour promozionali. Tour, perché comunque chi è che non ha avuto la maglietta di NoFX negli anni 90? Io! Ma ce l'avevi dei Bad Religion, però. Sì. Attracting my boobs, they're not as big as I want them to be. I want- between us. And those new boobs just aren't you. Get away, riding around as the trucks drive. qualche purista dell'hardcore qua storce il naso, insomma, sono troppo idioti, ma nel senso buono. Noi gli vogliamo molto bene, i nostri NoFX. C'è da dire che hanno ispirato uno stormo di altri gruppi realmente idioti che facevano punk hardcore, ma non solo per colpa loro, perché ne abbiamo accennato all'inizio. Grazie a loro, gruppi come Green Day e Offspring veramente fecero i miliardi e fecero fare i miliardi alle grosse etichette discografiche, ma si parla esattamente del 94, dell'anno dopo, quindi non ci riguarda. Beh, sicuramente Green Day, anche loro venivano dagli anni 80. Mi ricordo le fanzine degli anni 80, quelle di... Anche gli Offspring. Sì, mi ricordo, cioè, gente che comunque le fanzine di Duca Frazzi, per fare un nome, tiravano fuori appunto questi nomi. Tra gli altri anche poi sono Idea, gruppo davvero sottovalutato della scena, che comunque uscivano insieme a Green Day e Offspring appunto, solo che poi sono Idea hanno davvero avuto molta sfortuna nella loro carriera, non hanno avuto il successo che meritavano sicuramente. Erano un po' troppo nichilisti. Però la possiamo così fare una puntata su poi sono Idea, giusto per... no? Promesso. Promesso. Magari anche quest'anno. Ai ai ai ai ai. Radio. right about this time. Some shithead will be drawing a fat fucking line over the title on the back sleeve. What an asshole! So Mr. DJ, I hope you already made your segue, or the FCC's gonna take a shit right on your head. You can't play this song on the radio. You can't play this song on the radio. We'll be right back. secondo me abbiamo accontentato parecchi punks in giro per Bologna e ce ne sono ancora tanti, come ha dimostrato il concerto tenuto all'Atlantide un paio di domeniche fa, che era stato molto molto molto partecipato. Devo dire che avevo il sorriso fino alle orecchie. Ah, però. Bene, dai, 22:22, siamo per chiudere, insomma, chiudendo, parlando dei NoFX, di quanto hanno comunque aperto una frattura all'interno del movimento punk americano e non solo, insomma, chi diceva che comunque non erano veritieri i loro slogan, perché comunque per certi versi hanno strizzato l'occhio al mainstream, chi invece diceva che coerenti, insomma, con la loro indole do it yourself. Non lo so, Nicola, tu vuoi dire qualcosa? Secondo te sono veritieri? Io mi vorrei soffermare su un messaggio che ci ha mandato sto ragazzo. Ovviamente ci siamo, in conclusione facciamo un po' di polemica, non possiamo sempre dire sempre bravi qua. Non fa parte di noi, cioè noi dobbiamo liberare il nostro modo di vedere e fare le cose, cioè siamo sempre in dissenso e non c'è verso. E Mattia ci segnala e ci racconta che non sono poi così coerenti come li abbiamo dipinti o per i parecchi lo siano. Perché un certo Fat Mike, non poco tempo fa, insomma, è andato a conoscere il presidente USA. Ma quale presidente? Bush? Non penso, probabilmente quello successivo. Ah, vabbè. Né padre né figlio. E quindi, insomma, alcuni... Spirito Santo, allora. Sì, è probabile. E quindi parecchi discorsi anticapitalisti sono andati a farsi friggere, questo è poco ma sicuro. Pace e bene, questo è quanto. E con questa salutiamo. Buonanotte. Ciao, a tutti. Buonanotte. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Chases when mine has been. Could it be some magic generating a mess we're in? I understand that language breeds stereotypes, but what's the explanation for the malice, for the spite? Don't call me white. Don't call me white. Don't call me white. Don't call. Don't call me white. Don't call me white. Represents everything I hate. The salt shoved in your mouth to cleanse the mind. A vast majority of sheep, a blood in color, sized and bleach, constricting vein, the blood flow to the brain flow. They're so fucking ordinary white. Don't call. Up the volume.